Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Ciao a tutti e ben ritrovati, sono Anna Maria Ciappa e vi terrò compagnia con la seconda puntata della rubrica Radio Giovani in Azione, rubrica promossa nell'ambito delle attività dello sportello Giovani per l'orientamento e l'informazione del distretto D2, composto dai comuni di Bivona, Santo Stefano Quisquina, Cianciana, Alessandria della Rocca e San Biagio Platani. La scorsa settimana vi abbiamo parlato dello sportello e delle opportunità che propone. Oggi vogliamo soffermarci su Gioventù in Azione, un programma europeo completamente rivolto ai giovani. Per farlo, ospiteremo Marco Marchese, facilitatore esperto di gruppi giovanili. A tra poco. Radio Libriamoci Web. In the daytime, feeling like you want to belong. The same old familiar city that kept you around for so long. But you're stuck inside your loneliness and pity. There's no place to go when the town's closed down. There's no place to go, you can't hide. No place to go when you wanna go home. You can't go home. Can't go home. Sometimes your friends, they act so strange. They think they're different, but they look the same. And you shake your head, you realize you lost your taste for the game. 'Cause you're stuck inside your loneliness and pain. There's no place to go when the town's closed down. There's no place to go, you can't hide. There's no place to go when you wanna go home. You can't go home. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Eccoci rientrati nello spazio Radio Gioventù in Azione. Siamo in compagnia di Marco Marchese, al quale voglio chiedere: cos'è il programma Gioventù in Azione e chi lo gestisce? Buon pomeriggio a tutti. Anna Maria, per rispondere alla tua domanda, ti dico subito che il programma Gioventù in Azione è un'opportunità unica per i giovani europei. È un programma pluriennale che è iniziato nel 2007 e si concluderà nel 2013. È un programma istituito dall'Unione Europea che si rivolge direttamente ai giovani che vanno dai 13 ai 30 anni, coinvolgendo tutti i paesi europei e addirittura anche i paesi limitrofi, come ad esempio i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In Italia è gestito da un'agenzia, così come anche in molti altri paesi europei. Nel nostro caso è l'Agenzia Nazionale per i Giovani, presso cui i giovani, le associazioni, ma anche i singoli giovani che si riuniscono in un gruppo formale possono presentare un progetto e chiedere un finanziamento. Quali sono gli obiettivi del programma? obiettivi del programma sono veramente tanti, ma sostanzialmente l'obiettivo principale di questo programma è quello di favorire la mobilità dei giovani, quindi scambi giovanili, poter incontrare altri giovani di altri paesi europei. Obiettivo è favorire il protagonismo dei giovani, giovani che si mettono insieme per realizzare qualcosa di concreto nel proprio comune, nel proprio quartiere o nella propria regione. Il programma prevede sostanzialmente che i giovani abbiano un ruolo attivo, promuovano direttamente la cittadinanza europea. Quindi sono veramente tanti gli obiettivi che il programma poi cerca di raggiungere, dando l'opportunità ai giovani di presentare questi progetti, di presentare diversi progetti che vanno dagli scambi giovanili, dalle iniziative locali o ancora corsi di formazione, incontri con gli amministratori politici. Marco, perché è importante un programma come Gioventù in Azione? Il programma credo sia importante per un concetto fondamentale, che è quello dell'educazione non formale. Molti altri programmi europei, ma anche la scuola, l'università, si fondano su un'educazione formale, fatto da lezioni, seminari, tutta una serie di attività in cui i giovani hanno un ruolo più da fruitori, da ascoltatori, quindi un ruolo passivo, mentre un'educazione non formale ci insegna, ci dà la possibilità di apprendere nuove competenze di vita, che sono le competenze che ci torneranno utili in tutta la nostra vita, dalla gestione familiare, dal cercare un lavoro. Il programma credo che sia unico nel suo genere, fondamentale perché dà la possibilità ai giovani di presentare direttamente un progetto, quindi un accesso facile per i giovani che gestiscono e quindi sono coinvolti in prima persona nel gestire un progetto. Grazie Marco. Ragazzi, voi non andate via perché ci risentiamo tra pochissimo. Radio Libriamoci Web. Turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Bentornati a Radio Gioventù in Azione. Siamo in compagnia di Marco Marchese, facilitatore esperto gruppi giovanili, e stiamo parlando del programma Gioventù in Azione. Marco, che opportunità offre il programma Gioventù in Azione? Come abbiamo detto poc'anzi, il programma offre veramente tante possibilità e opportunità per i giovani. Basta considerare che il programma è strutturato in 5 azioni e ogni azione permette ai giovani di fare qualcosa. Un esempio, l'azione 1 è un'azione che permette ai giovani di fare uno scambio con altri giovani di un altro paese europeo. Poi abbiamo l'azione 2, ad esempio, che è il servizio volontario europeo. Poi ci sono i corsi di formazione rivolti anche in questo caso agli operatori giovanili e quindi a chi lavora direttamente con i giovani. L'altra azione, che è l'azione numero 5, invece è un'azione particolare perché permette ai giovani di organizzare un seminario di dialogo con i propri amministratori locali e quindi fare delle scelte comuni per il proprio territorio. Chi può partecipare ai progetti? Il progetto può essere promosso dai giovani che hanno un'età dai 13 ai 30 anni, ma ogni azione ha una sua specificità, quindi per questo è importante leggere bene le linee guida del nostro programma, ma possono presentare giovani che sono strutturati in un gruppo informale, quindi almeno quattro giovani che si mettono insieme e decidono di partecipare a questo programma, o anche associazioni no profit, enti pubblici, quindi possono partecipare diverse categorie di enti che vogliono portare nel proprio comune qualcosa di concreto promosso dai giovani. Se un giovane fosse interessato, quando deve presentare i progetti e a chi? Ci sono alcune scadenze ogni anno fino al 2013, queste scadenze sono il 1 febbraio, il 1 maggio e il 1 ottobre. Bisogna scaricare anzitutto le linee guida del programma andando sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, che è www.agenziagiovani.it, e i link si trovano anche nello sportello Giovani di Bivona. Scaricare il formulario, quindi compilarlo, studiarlo attentamente, e poi entro la scadenza spedire tutto all'agenzia. Radio Gioventù in Azione torna tra 2 minuti. Radio Libriamoci Web. I don't wanna breathe no more, I don't wanna live, and I don't wanna cry no more, I have no more tears to give. The way you made me feel, I know I'll never feel again. And to know I'll never hear your voice is tragic, I know I can't feel a thing, but I know this world is cold and it isn't. So alone, and I get so scared, yeah, yeah. Without your touch, I need it so much, and I just can't stay, yeah, yeah. To know that you're gone, I can't believe you're gone. Yeah, it's so unfair. Can't grieve, I'm bored of feeling. That's the way I choose to live. A loss with no good reason, and that's what I can't forget. The way you made me feel, I know I'll never feel again. And to know I'll never hear your voice is tragic, I'm numb, I can't feel a thing, but I know this world is cold and it isn't. Say, yeah, yeah. To walk out alone, I feel so alone, and I get so scared. Just can't stay, yeah, yeah. To know that you're gone, I can't believe you're gone. Yeah, it's so unfair. You're not here, so why won't you just go? Even if you're here, you're so damn cold. Yeah. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Bentornati su Radio Gioventù in Azione. Marco, facciamo alcuni esempi di progetti che si possono presentare. I progetti sono veramente tanti che possono essere presentati. Considera che quest'anno la Commissione Europea ha stabilito alcune priorità relativamente ai progetti, quindi saranno prioritari i progetti che sono volti a promuovere l'impegno dei giovani nell'ambito della disoccupazione giovanile, quindi delle idee innovative in questo senso, progetti che stimolano lo spirito iniziativa e la creatività dei giovani nell'ambito dell'imprenditorialità, ma anche progetti che promuovono stili di vita salutari, soprattutto tramite lo sport, e anche progetti che riflettono sulle sfide climatiche, soprattutto rispetto dell'ambiente. Come può aiutare lo sportello nella presentazione dei progetti? Ricordiamo che lo sportello di Bivona è un centro Eurodesk e quindi ha il compito di fornire tutte le informazioni relativamente al programma Gioventù in Azione, quindi trovare le linee guida, esempi di progetti, il formulario e trovare anche un sostegno nella progettazione e nella presentazione dei progetti. Basta rivolgersi allo sportello o andare anche sul sito dello sportello, che ricordiamo è www.sportellogiovani.eu, e contattare l'operatore di riferimento. Bene, ringraziamo Marco Marchese e ricordiamo che questa puntata andrà in replica alle 22:30 questa sera. Vi anticipo che nelle prossime puntate parleremo con i giovani che hanno partecipato ai progetti per capire qualcosa in più del programma Gioventù in Azione. Io vi do appuntamento giovedì prossimo sempre alle 18. Buon proseguimento! Radio Gioventù in Azione.